Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, che devo dire in questo caso saranno anche temi della settimana se va avanti così, mi riferisco chiaramente al tema dell'IRAP, dopo la richiesta arrivata di nuovo dal due giorni dei piccoli industriali di Confindustria Mantova, richiesta arrivata dal presidente Confindustria Marcegaglia, ribadita oggi in un intervento a Biella, dopo l'apertura che c'era stata sempre a Mantova da parte del ministro Calderoli, che aveva detto si può iniziare a ragionare sugli interessi passivi e sull'IRAP applicata sul costo del lavoro come prima valutazione. E questa è la proposta del ministro Calderoli, che si era limitato però alle aziende con fino a 50 dipendenti, e Confindustria chiede che venga allargata. I costi sarebbero intorno ai 3 miliardi e mezzo l'anno in primo anno, poi a regime su 2 miliardi. Su questo però, diciamo, la situazione, come dicono gli eufemisti, è molto fluida, nel senso che sappiamo che il ministro Tremonti tiene moltissimo e ha, dal suo punto di vista, ragione ai conti pubblici e a quello che diranno le agenzie di rating. In realtà, come tutti avete capito, la partita è anche molto più politica che banalmente o semplicemente economica, di pesi e contrappesi all'interno della coalizione di governo. Parleremo di quello che pensano le agenzie di rating nella seconda ora del programma, con uno dei responsabili di una delle tre agenzie che danno il voto al debito del paese, quelle che subito si sono un po' agitate quando hanno letto giovedì scorso della proposta del presidente del Consiglio Berlusconi di arrivare all'eliminazione dell'IRAP. Il problema è che cosa ci metti, come recuperi quei soldi, 38 miliardi di euro l'anno complessivamente. Poi parleremo della borsa. Borsa che inizia la settimana male, devo dire, sulla scia della chiusura di venerdì, meno 1,7% Milano e anche Francoforte e anche Parigi. Londra tra le migliori perde lo 0,6%, l'America perde un punto percentuale. L'euro è poco mosso, è 1,49,10, per cui sempre vicinissimo, quota 1,50. E ancora, per quello che riguarda i titoli, in pregilo perde il 6,20, Bulgari 5,1, Buzzi Unicemi 4,3, il 3,7 Fondiaria, il 3,5 lo perde Pirelli e le Mondadori, il 3,2 lo cede Telecom Italia, il 3% è il calo di Autogrill, il 2,80 quello di Intesa San Paolo, il 2,7 quello di Unipol, Exor meno 2,6, il 2,5 lo perde Mediobanca, ma anche Prismian e Italcementi. Mi fermo con chi perde il 2%, Mediolanum meno 2,3 come Generali e come Saipem, e poi le CIR perdono il 2. Chi guadagna? Snam, Rete Gas lo 0,80, Tenaris lo 0,60, l'Automatica più 0,4. Peggior titolo in assoluto il gruppo ING, c'è una notizia di mercato che lo riguarda, meno 16%, e poi poco altro, devo dire, in pregilo sugli ordinari meno 6, lo abbiamo detto. Il miglior titolo Tiscali più 20,9, e la Roma Calcio Barca Intermobiliare più 2%. Allora, l'ultima cifra come sempre, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Ancora sui temi, avremo anche un'intervista a un grandissimo economista, perlomeno a mio avviso, che si chiama De Soto, poco conosciuto in Italia, in realtà è un economista peruviano che sostiene, era presente in Italia durante il convegno annuale dei notai, sostiene che per risolvere i problemi del terzo mondo, che da questa crisi rischia di pagare conseguenze anche più forti di quelle che non paghiamo noi, basterebbe garantire i diritti di legalità, i diritti di proprietà, i diritti che da noi sono diritti ormai acquisiti da decenni, da secoli, per liberare molte persone del terzo mondo dalla condizione di sottosviluppo e fame e miseria, senza tanti aiuti dall'Occidente. Garantite i diritti e l'applicazione dei diritti. Ne parliamo più avanti, perché ogni tanto ci piace anche respirare, non solo occuparci, diciamo così, delle proposte barra beghe di casa nostra. Le notizie in breve. Dicevo che c'è una notizia sul gruppo finanziario olandese ING che punta a raccogliere 7 miliardi e mezzo di euro attraverso la vendita di nuove azioni e intende cedere tutti gli asset, tutte le sue controllate di carattere assicurativo. Questo per ripagare il prestito da 10 miliardi di euro ricevuto dallo Stato olandese nel pieno della sua crisi finanziaria. Vertice oggi tra le due principali banche italiane, ossia Unicredito rappresentato da Alessandro Profumo e Corrado Pass e Intesa San Paolo rappresentata da Corrado Passera, con il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Era presente anche il presidente della Fondazione Cariplo, nonché presidente delle ACRI, Giuseppe Guzzetti. Un'ora di lavoro, una colazione di lavoro, non è uscito nulla, si è detto solo che hanno discusso dei temi del risparmio e del mondo bancario. Giovedì vi sarà la giornata mondiale del risparmio, quindi gli interventi di Mario Draghi, Giulio Tremonti e Giuseppe Guzzetti da Roma. Sulle banche, sul rapporto banche-imprese, allora facciamo un po' di chiarezza, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666. Ci sono due fronti aperti per le imprese. Primo fronte, rapporto con il mondo bancario, con il mondo del credito, e lì occorre arrivare a un accordo in qualche forma che però non tenga solo conto dei bilanci, perché quest'anno i bilanci sono tutti in passivo, molti saranno in passivo, quindi se vai a vedere i bilanci in realtà è come se vivessi su Marte, non ti fossi reso conto che l'economia anche italiana sta attraversando la peggior crisi da 50 anni. Altro fronte è quello della parte fiscale, cioè dare potere d'acquisto ai dipendenti attraverso un alleggerimento delle tasse sul lavoro, cuneo fiscale, IRAP. Quello è un elemento che deve poter far respirare le imprese italiane, soprattutto le piccole, che sono quelle più a rischio, dove si calcola che potrebbero arrivare a essere 700.000 posti di lavoro persi, e dove in Germania 24 miliardi di aiuti decisi dalla prima riunione del governo Merkel, quindi concorrenza anche interna all'Unione Europea, 24 miliardi di sgravi fiscali, per cui le imprese tedesche avranno una marcia in più. E visto che questi due temi li tratteremo anche oggi, sentiamo un passaggio dell'intervento di sabato mattina della Presidente di Confindustria Marcio Gaglia proprio sul rapporto banche-imprese. Ci saranno ulteriori tensioni sul credito, parliamoci chiaro, i bilanci del 2008 erano i bilanci in parte non troppo buoni ma ancora decenti perché scontavano un primo semestre ancora buono, i bilanci del 2009, a parte qualche fortunato, saranno tutti bilanci molto negativi e quindi avremo un problema di restrizione del credito da gestire. Voi sapete, noi non siamo per le crociate verso le banche, non ci interessano, anzi noi abbiamo cercato di collaborare con le banche, di fare il possibile perché le banche fossero più aperte alle esigenze delle imprese, però anche da qui io voglio dire una cosa molto chiara: in un momento come questo le banche devono fare ancora di più. Noi abbiamo bisogno di banche che veramente abbiano la capacità di valutare il singolo imprenditore. Qua ci sono storie imprenditoriali bellissime. Allora, anche se c'è un bilancio non bello, brutto per il 2008, per il 2009, ma c'è davanti una storia imprenditoriale seria, fatta di sacrifici, fatta di occupazione sempre creata, fatta di grandi progetti portati avanti, noi non possiamo diventare solo un rating, non possiamo diventare solo un numero rigido e vuoto. Noi vogliamo essere imprenditori che vengono valutati sulla propria storia, sulla propria capacità di stare in piedi nel futuro, e su quello veramente vogliamo lavorare. Quindi noi chiediamo alle banche di fare veramente uno sforzo in più, perché dal nostro punto di vista su questo lo sforzo fatto non è sufficiente, bisogna fare di più. Quindi due fronti: credito alle piccole imprese da un lato e mantenimento il più possibile dei livelli occupazionali, in modo che non chiudano i battenti le imprese, non licenziano i 700.000 lavoratori temuti, stimati. Il presidente della piccola industria Confindustria si è spinto fino a dire 1 milione poi di imprese a rischio, poi leggermente corretto. Comunque questi sono i due fronti per un autunno vischioso, opaco e anche più pericoloso della prima parte della crisi. Perché? Perché non fa notizia la singola impresa che chiude e licenzia 20 dipendenti, non fa notizia rispetto alla grande banca che annuncia 10 miliardi di svalutazioni o che annuncia la chiusura. Però se mettiamo assieme migliaia di piccole imprese, nessuna delle quali è in grado di fare notizia, poi ci ritroviamo con 200, 300, 400 mila disoccupati. Questo è il timore, cioè di una moria silenziosa di imprese che non riesce mai a raggiungere l'opinione pubblica né l'interesse della classe né politica. Poco fa Emma Marcegaglia è tornata a chiedere al governo che agisca con una riduzione dell'IRAP dal primo di gennaio, quindi in tempi strettissimi. Il presidente Federchimica Giorgio Squinzi ha detto l'industria chimica, per l'industria chimica la ripresa arriverà solo nel 2012. Auguri. La Confederazione Italiana Agricoltori stima a rischio 300.000 aziende in 2-3 anni. Insomma, le pressioni per evitare che l'autunno e l'inverno si trasformino in una lacerazione del tessuto produttivo italiano sono molte, gli allarmi sono tantissimi. Ecco perché vorrei parlare della proposta che è arrivata con un'apertura anche del ministro Calderoli sabato a Mantova, e la proposta è ridurre una parte dell'IRAP. Perché il ministro Calderoli da Mantova ha detto va bene, potremmo ridurre l'IRAP per quello che riguarda gli oneri, gli interessi passivi che uno paga quando si indebita, e anche per la parte che riguarda il lavoratore, e quindi ci sarebbe un vantaggio anche sul fronte del lavoro. Ne vorrei parlare non con i politici, anche perché poi di nuovo oggi botte e risposte dentro il governo, né con chi, diciamo, è soggetto chiamato in causa, ma con chi spesso svolge attività di consulenza vera e propria con le piccole imprese, le imprese artigiane, i commercianti, ossia i commercialisti. Allora è in collegamento con noi il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Claudio Siciliotti. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Già il nostro ospite quando si trattò di ragionare sullo scudo fiscale, ora mi sembra che il tema si sia spostato all'IRAP. E allora io vorrei capire alcune cose con lei, dottor Siciliotti, perché intanto sappiamo che 38 miliardi di tassa, come ricordava anche oggi il ministro Calderoli, non sono facilmente levabili, praticamente è impossibile, però dove andare a, così, a concentrarsi in un'operazione fiscale sulle piccole e piccolissime imprese? Ma io penso innanzitutto l'IRAP è un'imposta che nessuno ha mai amato, e bisogna dire in maniera assolutamente bipartisan, qualcuno ha introdotto nel nostro ordinamento e qualcun altro non ha tolto. È particolarmente odiosa perché alza il costo di produzione e quindi toglie competitività internazionale alle merci italiane. È un'imposta che si paga sugli imprenditori che assumono e si paga addirittura talvolta quando si è in perdita, e quindi sicuramente non è amata da nessuno. Come diceva lei, è impensabile, credo, allo Stato un taglio netto, perché il sacrificio per le entrate dello Stato sarebbe così rilevante. Probabilmente si può fare qualche cosa, come permettere la deducibilità del costo del lavoro, degli interessi passivi, una manovra che dovrebbe pesare circa 3,5 miliardi, e quindi come tale, anche in vista dello scudo e dei proventi dello scudo, può essere sicuramente una manovra che dà una boccata d'ossigeno alle nostre imprese in un momento di così grave difficoltà. Quindi lei dice la parte che poi è stata la proposta arrivata da Mantova, la parte di IRAP relativa al costo del lavoro e agli interessi passivi. Gli interessi passivi è la parte meno gradita, più odiosa di tutto questo, cioè penalizza gli imprenditori che assumono e quelli che sono indebitati, ma oggi credo che indebitati lo siano francamente tutti, quindi sì, la platea dei contribuenti più allargata. Sì, tra l'altro, insomma, in questo periodo penalizzare un imprenditore che assume o che ha già assunto e comunque ha un costo più alto se ci paga anche l'IRAP da un lato, e penalizzare chi si sta indebitando per non chiudere sarebbe veramente un controsenso, anche così culturale, non solo diciamo dal punto di vista dei conti dello Stato. Però i conti dello Stato ci sono e non sono messi bene. Le chiedo, è arrivata anche la proposta di lavorare e agire soprattutto sul cuneo fiscale, cioè sulla differenza tra quanto costa il dipendente all'impresa e quanto invece ottiene in busta paga, perché questo permetterebbe da un lato costi minori alle imprese nel mantenimento di un dipendente, dall'altro un aumento del guadagno in busta paga, cioè far ripartire la domanda interna, perché se non ripartono i consumi qui non si va da nessuna parte, non si può aspettare semplicemente che parta l'export o che sia la Cina o la Germania a darci una mano. Cuneo fiscale. Sicuramente anche questa misura è una delle tante misure, i fantasmi che aleggiano. In ogni campagna elettorale viene indicato come uno degli obiettivi da perseguire e poi si finisce per poi non realizzarlo mai. Quasi come se i programmi che si fanno alle elezioni non servissero per realizzarli dopo, ma fossero finalizzati semplicemente al fatto elettorale. Io penso che questo sia estremamente importante, ma siccome tutte queste misure alla fine incidono sul gettito, io credo che siamo arrivati al punto, non sono io il primo a dirlo, lo dicono altri più autorevoli di me, che il tema dell'età pensionabile deve essere toccata, perché se non facciamo questo, nessuna di queste manovre potremmo permettercela in maniera incisiva. Forse è arrivato il momento di dirci che aumenta l'età media, aumentano le donne, e penso che abbiamo prospettive di vita più lunghe. Abbiamo il coraggio, proprio per le giovani generazioni a cui tutti dobbiamo tenere, di toccare questo tabù. Secondo me è questo quello che dobbiamo fare. Sì, devo dire che la Presidente di Confindustria Marcegaglia nel suo intervento a Mantova sabato ha detto ci sono anche molti sprechi nella pubblica amministrazione, pieghe improduttive, si potrebbe tagliare lì. Certo è che se si alzasse l'età pensionabile troveresti un risparmio per le casse dello Stato quantificabile da subito, se non ricordo male, 1,7 miliardi, 2 miliardi di euro l'anno, però solo per il 2010 vi dovrebbe essere anche l'apporto, chiamiamolo così, dello scudo fiscale. Allora, di scudo fiscale abbiamo già parlato con lei, e io insomma resto dell'idea che ci sia una sospensione così del diritto in questo caso, che sia di fatto un condono, ma che possa anche reggere il ragionamento in un periodo così difficile, si va a raschiare il fondo del barile. 5 miliardi più o meno quello che dovrebbe entrare. Lei immagina che questi soldi come avvio possano essere tutti o dovrebbero essere tutti utilizzati per la parte fiscale alle imprese e ai lavoratori? Allora, la prima cosa, non giriamoci intorno, si tratta indubitabilmente di un sacrificio di legalità. Cioè è qualcosa che non piace a nessuno, non può e non deve piacere a nessuno. È in qualche modo un compromesso che ha profili di accettabilità solo a due condizioni. La prima è che sia veramente l'inizio di una guerra decisa, coordinata, che coinvolga tutti gli stati a livello internazionale contro i paradisi fiscali e contro i paradisi finanziari, non solo quelli che offrono un'imposizione fiscale più favorevole, ma quello che sono, per usare un eufemismo, non collaborativi nelle informazioni sulle transazioni finanziarie che avvengono nel loro paese. Questo non possiamo permettere che ci sia un'economia globale e regole locali. Questo deve finire e quindi questa è la prima condizione per rendere accettabile questa misura. La seconda condizione è quello che diceva lei, cioè che i frutti di questo sacrificio siano impiegati in maniera virtuosa, quindi mi auguro che non si vada a tappare le falle di un'amministrazione inefficiente, ma si vogliano destinare alla ripresa e allo sviluppo, quindi non solo alle imprese, mi piacerebbe dirlo a favore delle attività produttive, e mi permetta di dire che nelle attività produttive metto anche i professionisti che svolgono un ruolo oggi fondamentale di cerniera tra mondo produttivo e istituzioni e paradossalmente sono sempre dimenticati. Mi domando come misure come la Tremonti Ter o la moratoria dei debiti bancari non possano riguardare anche i professionisti, i quali oggi, le parlo di noi, dei commercialisti, sicuramente non vivono un calo di domanda di prestazioni professionali, ma vivono una generalizzata richiesta di aspettare dal punto di vista finanziario. Io ti chiedo una prestazione, io cliente, me la fai e anzi fammela di più e meglio, più veloce di prima, ma abbi pazienza nei pagamenti. Quindi è proprio quello che serve per rilanciare il mondo produttivo. Ho la sensazione che sempre i professionisti siano considerati figli di un dio minore o comunque al di fuori dei programmi governativi. Esistono le imprese e non saremo certamente noi a negarne la rilevanza e l'importanza ai fini dello sviluppo, ma esistono anche i professionisti e mi piace soprattutto i giovani in questo momento vivono le difficoltà maggiori. Ecco, andiamo con ordine però. Allora, per quello che riguarda l'utilizzo dello scudo fiscale, ho capito che lei, insomma, detto dal Presidente dei commercialisti non è male, si tratta di un sacrificio di legalità, e dico non è male perché poi invece in realtà voi immagino che avrete anche un ruolo di consulenza, però quindi anche voi riconoscete che qui c'è un sacrificio di legalità, c'è una, io ho chiamato sospensione, ma insomma certo che qua si vanno a tra virgolette agevolare comportamenti illeciti di chi ha portato i soldi fuori, non li ha reinvestiti in azienda e comunque tassati e partecipato quindi alla ricchezza creativa del paese, poi magari lo stesso che si lamenta che non funzionano le scuole, gli ospedali, vabbè, e gli si dà la possibilità di farli entrare col 5%. Voi dite, ha un senso solo se veramente si stringe su Austria, Svizzera, Liechtenstein, e lì devo dire che dall'ultimo vertice dei ministri economico-finanziari non è uscito un gran segnale, perché non si è riuscito a arrivare a un accordo, e poi ha un senso se tutti questi soldi vengono messi direttamente per ridurre la pressione fiscale su imprese e dipendenti a questo punto. L'ultimo aspetto che avevo per voi riguardava invece appunto i professionisti, lei in parte l'ha già anticipato, ma abbiamo già fatto queste domande a chi presiede l'ordine degli architetti piuttosto che degli avvocati, anche da voi. Qui c'è un tema che sfugge molte volte alle inchieste giornalistiche. Ci sono migliaia di professionisti laureati appunto che fanno pratica o svolgono attività anche dentro gli studi commercialisti, che non hanno né la tutela della cassa integrazione né i diritti di altre categorie, che voi, non lei nel caso specifico, ma voi in generale sottopagate, perché sappiamo tutti che questi laureati vengono pagati, delle volte non pagati, delle volte pagati qualche centinaio di euro al mese, insomma sono pochi i casi di studi di avvocato, di commercialista, di architetto realmente corretti, e che in questo momento sono i primi a essere sacrificabili, perché si dice vabbè, se l'attività gira di meno, ciao, lui non ha una cassa integrazione, non ha una previdenza, non ha nulla. Lì che cosa si può fare, dottor Ceciliotti, visto che lei rappresenta tutti i commercialisti? Guardi, intanto la constatazione è giusta, i professionisti sono gli unici privi di ammortizzatori sociali diversi dalla fiducia che giorno per giorno riescono, come dire, a infondere nei loro clienti. Questo è l'unico ammortizzatore sociale che noi abbiamo e francamente, lei lo può capire, è abbastanza poco. Il problema si pone in maniera particolare per i giovani. Diciamo che noi abbiamo codici deontologici e regolamenti di tirocinio che prevedono la possibilità di borse di studio a favore dei tirocinanti, proprio come incentivo all'accesso alla professione. Queste sono norme deontologiche, io ritengo largamente osservate dai colleghi, sicuramente con delle differenze, questo non c'è dubbio, questo non posso garantire che avvenga a livello generale, però il tema dei giovani di questo paese, e riguarda non solo i giovani professionisti, i giovani in generale, questa è la prima generazione dopo tanto tempo che ha chiare prospettive di stare peggio dei propri genitori, questo è il dato. E probabilmente i governanti devono porsi questo obiettivo, e quindi misure di incentivazioni particolari, oltre a quelle che chiediamo sui professionisti, forse le dovremmo chiedere anche per i giovani professionisti. Su questo io sono pronto a fare la mia parte, sono pronto a discutere. Per esempio, probabilmente anche va rivisto un tema previdenziale. Chi è entrato in previdenza prima ha avuto molto di più di quanto prospettivamente possono avere i giovani per il futuro. Forse anche questo è un argomento che va rimeditato, ma va rimeditato a livello generale in questo paese. Noi dobbiamo passare dal diritto acquisito al diritto sostenibile. Non sempre quelli che sono comandamenti scritti reggono poi all'evoluzione dei tempi, e di questo responsabilmente dobbiamo prendere atto. Io mi auguro appunto che alcune iniziative, per esempio la borsa di studio per i neocommercialisti, nel caso vostro, possano anche dare qualcosa. Comunque è chiara l'indicazione che arriva da chi poi, ripeto, lo dico anche chi scrive al 349-238-6666, fa consulenza in primo luogo fiscale, ci mancherebbe, ma anche di strategia alle piccole, piccolissime imprese, alle imprese artigiane e ai commercianti. Grazie quindi al Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Claudio Ceciliotti. Grazie a voi. E dopo il meteo parleremo anche di altri temi che voi toccate, la detassazione della tredicesima, altri interventi più o meno annunciati. Allora, direi che in generale il problema, il punto è questo. Detassare significa per lo Stato rinunciare a delle entrate, quindi da un lato devi trovare questi soldi da qualche altra parte, se no vieni penalizzato con il voto dell'agenzia di rating, e cosa succede? Il tuo debito ha degli interessi più alti, quindi noi paghiamo di più il rifinanziamento e gli interessi sul nostro debito, quindi non si può mettere a rischio la tenuta dei conti dello Stato. Dall'altro occorre che queste misure siano realmente efficaci. Perché lo dico? Perché detassare le tredicesime, secondo molti osservatori e analisti che abbiamo avuto ospiti, potrebbe non servire a nulla, perché quei soldi che io ottengo in più me li tengo in casa e quindi non circolano, non fanno ripartire la domanda interna, me li tengo sotto il materasso. Se invece tu vai a tagliare direttamente le tasse sul lavoro dipendente, quanto costa il dipendente a un'impresa, beh, hai un vantaggio diretto, a partire dal vantaggio che ne hai per l'impresa e anche per, chiaramente, il lavoratore. Costa di meno il lavoro, l'impresa è un po' più competitiva. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso parliamo di borsa. Devo dare qualche risposta però agli sms che stanno arrivando. Allora, alcuni hanno scritto: ma adesso bisogna anche difendere i commercialisti. No, o meglio, in un'intervista in cui si è parlato di IRAP, del ruolo che hanno i commercialisti come consulenza nelle piccole imprese, di dove trovare i soldi per questi IRAP, dello scudo fiscale definito dal presidente dei commercialisti italiani un sacrificio di legalità, dove appunto si riconosce che viene meno un principio di legalità, lo si fa, la si sacrifica per poi dare questi soldi a chi e dare agevolazioni fiscali alle imprese. E in questa situazione si è solo detto che tra le categorie dei giovani professionisti che non hanno cassa integrazione, che non hanno altre forme di sussidio e tutela, non vi sono solo gli avvocati e gli architetti di cui già ci occupiamo, ci sono anche i commercialisti che vengono pagati, i giovani commercialisti, pochissimo in molti casi, Sicilia Ottinega, ma non risulta differente. Tutto qua, si possono tutelare anche i giovani commercialisti che guadagnano qualche centinaio di euro al mese come i giovani avvocati o i giovani architetti? Non capisco cosa facciamo, la guerra tra poveri. Ancora, e poi passiamo ai mercati. Dunque, vogliamo smettere. Alcuni di voi ci chiedono perché non. Ah, ecco, perché abbiamo sostenuto che se detassi la tredicesima non necessariamente questo viene speso. No, nessuno ha la certezza, ci mancherebbe, però è chiaro che in un periodo di incertezza economica, questo lo dice la teoria economica in maniera molto chiara, di incertezza economica, di così dubbi per essere buoni sul futuro, ridurre le tasse e quindi in questo caso sulla tredicesima significherebbe forse avere maggiori investimenti, forse avere una semplice aumento dei risparmi, a quel punto non servirebbe nulla, costa 6-7 miliardi e poi magari non ha effetti economici. Se tagli il cuneo fiscale, la differenza tra quanto costi al tuo datore di lavoro e quanto invece tu becchi in busta paga, hai un vantaggio per tutti i due soggetti. Questa è hai un vantaggio anche competitivo, questa è l'indicazione. Comunque adesso le borse. Mercati finanziari, per quello che riguarda la borsa, allora siamo dalla seconda seduta dopo quella di venerdì con un calo negativo, -1,80%, -1,70% invece il FTSE, -1,70% anche Parigi, -0,80% in questo momento l'America, e Francoforte ha perso -1,70% anch'essa, Londra -0,90%. L'euro a quota 1,49. Che cosa dire? Sembra che da praticamente giovedì prevalgono i realizzi, per ora sono ancora realizzi, perché ricordo che da inizio anno le borse sono tutte salite intorno al 20%, l'Italia, Londra +18%, l'America addirittura +36% sul Nasdaq. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ricordo che tra l'altro per l'effetto dell'entrata in vigore dell'ora solare in Europa, da lunedì 26 ottobre a venerdì 30 ottobre i mercati americani apriranno alle 14.30, lo dico perché alcuni di voi ci hanno chiesto l'orario di apertura, e chiuderanno alle 21, poi dal lunedì 2 novembre si tornerà al solito orario, cioè 15.30 ora italiana, 22 ora italiana. Andiamo sui titoli, male oggi un po' tutto, in pregilo la peggiore di nuovo, ma che succede? -5,91%. Sì, in pregilo peraltro appunto era brutta, era negativa sin dalle prime battute, perché la borsa oggi è stata molto volatile, ci sono stati dei momenti in cui l'indice è andato su, poi è crollato sul finale, ma in pregiro diciamo ha sempre registrato una delle performance peggiori. In questo caso la colpa è da imputare agli analisti di Exxon BNP Paribas, che hanno un po' riacceso i riflettori sulla società, hanno rivisto al ribasso le stime, pur confermando peraltro comunque un giudizio positivo, ma soprattutto hanno un po' riacceso i riflettori su alcuni punti critici della società, ovvero il fatto che ci possano essere eventuali ritardi nelle gare d'appalto per i dissalatori in Medio Oriente. Poi hanno rimesso in palio anche la valutazione dei lavori per il ponte sullo stretto di Messina, che è vero dovrebbero iniziare a fine 2009, ma tuttavia secondo gli analisti nessuna importante attività di costruzione è prevista nel 2010. Poi si sono inoltre interrogati anche sul pronunciamento del Tribunale di Firenze sul ricorso di Impregilo contro un'ammenda da 114 milioni che doveva essere pagata dal consorzio di cui fa parte la società per lo smaltimento illegale dei rifiuti durante la costruzione dell'alta velocità, e ancora sulla sentenza di Napoli relativa sempre ai rifiuti in Campania. Quindi insomma hanno riacceso un po' i riflettori su quelli che sono i punti critici anche dell'azienda, per cui il mercato è andato dietro e ha venduto le azioni sin dalle prime battute. E infatti è scesa 2,46 €. Bulgari meno 5,15%, cosa si scopre che il lusso potrebbe soffrire? E poi Fondiaria meno 4,2% come Buzzi Unicem, il 4% l'ha perso Pirelli, il 3,20% anche Telecom Italia. Allora Bulgari e poi direi Pirelli Telecom, anche se non c'entrano più nulla. Sì, il mercato sta mettendo un po' sotto i riflettori tutti quelli che sono i titoli più ciclici, anche perché peraltro fino adesso abbiamo visto una ripresa senza dubbio delle borse finanziarie, ma non una ripresa in termini reali, e quindi gli analisti si interrogano ovviamente su quello che sarà, su quelli che saranno i conti futuri delle aziende cicliche, dal lusso a Buzzi, che comunque è un'azienda ciclica, e via dicendo. Gli analisti si interrogano su perché hanno fatto quel lavoro delle volte con tutte le previsioni che hanno sbagliato. Vabbè, adesso Eleonora, ci sono informazioni perché in viaggio, poi gli altri titoli che ti ho chiesto, perché appunto Telecom e Pirelli, e le banche, volete sapere, le banche sono tutte deboli oggi, Intesa meno 3%, Generali meno 2,5%, ancora Mediobanca meno 2,7%, Unicredito meno 2%. :17:49. Allora, Eleonora Micheli, gli altri due titoli, poi andiamo anche su alcuni bancari. Sì, per quanto riguarda Pirelli e Telecom, Telecom meno 3,19%, anche Telecom in questo caso oggi è stata veramente sotto i riflettori, in avvio infatti le azioni sono arrivate a perdere oltre il 6%, ma secondo almeno quanto riferiscono i trader si è trattato praticamente di un errore. I titoli comunque poi hanno navigato per tutta la seduta in terreno negativo e poi hanno ampliato le perdite proprio sul finale, inizia a salire l'attesa per i conti del terzo trimestre che verranno resi noti il prossimo 5 novembre. Comunque ricordiamo che le azioni, a parte le due ultime sedute in cui c'è stata una battuta d'arresto, ma hanno corso molto, si erano portate quasi sulla soglia di 1,20 euro, da circa 1 euro al quale si attestavano fino a qualche settimana fa. Mm-hmm. Per quanto riguarda Pirelli, anche in questo caso si è trattato di realizzi. Poi sono scattate anche una serie di vendite dopo che i titoli hanno rotto soglie tecniche, almeno secondo quanto riferiscono i trader. Non sono gli unici a aver rotto. Comunque andiamo avanti con il settore bancario. Dicevo, insomma, è 2-3 giorni che in debolezza, è quello che ha corso di più. Io però vorrei essere corretto nel caso, Eleonora, non ho visto grossi temi oggi di mercato tali da giustificare cali intorno al 2%, se non un cambio di umore di chi fino adesso l'ha fatto correre il mercato. Sì, infatti è partito proprio dall'America questo cambio di umore, e a Wall Street sono vendute a piene mani tutte le azioni delle banche, in particolare Bank of America ad esempio perde oltre il 6%, perché proprio oggi Wall Street Journal riferisce che l'istituto pare si prepari a rimborsare 45 miliardi di aiuti statali, ma questo potrebbe mettere sotto pressione le finanze della banca. Non ci si fida e si è iniziato a vendere le banche, e da lì anche in Europa vendite copiose, soprattutto sui titoli finanziari. Ecco, c'è un altro gruppo che deve restituire 10 miliardi di euro allo Stato olandese, e mi riferisco al gruppo ING, quello conosciuto molto anche in Italia per il conto arancio. Allora, oggi, nell'ambito appunto di una restituzione di soldi, la casa madre olandese ha annunciato che venderà azioni per 7 miliardi e mezzo di euro e venderà anche alcune partecipazioni assicurative. Il titolo ha preso una sberla anche a Milano, meno 17%. Sì, anche ad Amsterdam le azioni hanno perso addirittura il 18%. Vabbè, e questo ci fa piacere, ma il motivo, scusami? Perché ovviamente c'è una notizia che mette sotto pressione le azioni, ci si interroga su quello che è lo stato di salute dell'istituto e si alimentano tutta una serie di timori. Per cui il fatto di cedere, dover vendere azioni per 7 miliardi e mezzo e iniziare a vendere anche partecipazioni assicurative viene visto come un segnale di debolezza. Io non capisco, ma veramente non conosco la vicenda, non capisco perché. Immagino ci sia una scadenza anche tecnica, ING debba ripagare adesso lo Stato olandese con 10 miliardi. Comunque meno 17% il titolo in borsa, peggiore in assoluto, a ultimo prezzo a 9,61 euro. Ancora invece tra i titoli in questo caso a maggiore capitalizzazione mi riferisco ad oltre Autogrill meno 2,6%, Lottomatica è invece l'unico positivo assieme a Tenaris più 0,5 e Snam più 0,4. Vabbè, gli energetici sono spesso difensivi, ma Lottomatica? L'automatica è andata bene invece sin da questa mattina, soprattutto da metà seduta, dopo che c'è stato un annuncio in base al quale la controllata G-Tech insieme alla spagnola Logista in joint venture hanno vinto, si sono aggiudicate un contratto per la nuova rete di vendite delle lotterie in Spagna. Il contratto durerà fino al 2020 e genererà circa 50 milioni di ricavi medi all'anno. Ovviamente la notizia è stata accolta positivamente dal mercato, anche se sul finale le azioni ovviamente hanno ritracciato seguendo un po' il destino dell'intero listino, ma comunque chiudendo il rialzo dello 0,66%. Allora, una notizia di una vicenda che abbiamo molto seguito. Ricorderete quando il gruppo Finmeccanica vinse la gara per fornire l'elicottero al presidente degli Stati Uniti, l'elicottero della Casa Bianca, no? E tutti festeggiamo anche perché obiettivamente Finmeccanica con la controllata Augusta Westland è uno dei due primi produttori di elicotteri al mondo. Poi quando è arrivato Barack Obama per tutto un insieme di motivi questi elicotteri stavano costando troppo, non si voleva dare questa impressione di montare su elicotteri miliardari. Finmeccanica ribatté: attenzione, avete chiesto tante di quelle misure di sicurezza, di contromisure elettroniche su questi elicotteri che praticamente ce l'ha solo un aereo militare, ecco perché il prezzo è lievitato. Insomma, braccio di ferro, la vicenda si è chiusa, ossia non vi sarà nessun elicottero italiano a portare il presidente americano Barack Obama, perché tutta la produzione degli elicotteri è stata cancellata, nemmeno i 485 milioni di euro previsti per completare l'operatività dei primi 5 elicotteri già consegnati saranno disponibili. Lo ha comunicato oggi il segretario alla difesa americano Robert Gates presentando il budget 2010, dove il completamento dei lavori è stato cancellato. Finmeccanica si è affidata a uno dei più grandi studi legali di Washington, sarà una battaglia legale. La Casa Bianca ritiene che per far volare i 5 elicotteri già consegnati servirebbero altri 2 miliardi, oltre i 3 miliardi già spesi. Praticamente ogni elicottero è costato intorno ai 600 milioni di dollari. Come con l'attrezzatura. Il titolo però, Eleonora, dell'ultima domanda che ho per te, ne ha risentito poco, meno 1,2 a 12 euro per azione. Sì, oggi meno 1,2, non è che ha sbandato particolarmente, anche perché da mesi ormai che diciamo il dossier è aperto, ogni volta ci sono dei colpi di scena in positivo o in negativo. Peraltro oggi comunque è stato reso noto che Otto Melara, una società di Finmeccanica, al termine di una gara internazionale avviata lo scorso luglio, ha firmato con il Ministero della Difesa italiano un contratto del valore di circa 20 milioni di euro per la fornitura di 81 torrette. Anche in questo caso la notizia non ha fatto granché al titolo, che più o meno è rimasto in area leggermente negativa per gran parte della seduta. E poi diciamo che la sberla l'aveva già presa a suo tempo quando vi fu il primo annuncio di Gates sull'elicottero presidenziale, adesso il mercato un po' se l'attendeva. Grazie, onore Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Qualche altro titolo che non abbiamo detto, per esempio Italcementi meno 2,70? Saipem meno 2,6, Prismian pure, il 2,5 l'hanno perso le generali, ma anche Exor e Unipol e Mediolanum e Mondadori. Il Monte dei Paschi ha perso il 2% come Unicredit, Fiat l'1,80% di calo come Steam Microelectronics e le CIR. Quando inviterete il Presidente degli analisti, lo abbiamo appena fatto, quindi ha avuto ampiamente modo il Presidente dell'AIF di spiegare le ragioni degli analisti. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi alcune risposte, scusatemi, il GR, mi fa gestacci giustamente in regia, il GR, poi parliamo sempre della proposta IRAP e comunque riduzione fiscale, dove trovare i soldi, che cosa ne pensano le agenzie di rating, cioè chi dà il voto al nostro debito. Minuti, seconda parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora restiamo sul tema, ma affrontandolo da un altro punto di vista, della riduzione fiscale per aiutare imprese e lavoratori in difficoltà. La crisi, lo abbiamo detto anche nella prima parte del programma, si sta spostando sul fronte occupazionale, il timore più grosso è quello che riguarda le piccole e medie imprese. E allora, se nella prima parte ne abbiamo parlato con chi rappresenta i commercialisti italiani, adesso ne parleremo con chi invece dà il giudizio sul nostro debito. Prima di tutto però, visto che ce lo chiedete, allora un paio di risposte. Su Finmeccanica e il fatto che la Casa Bianca abbia definitivamente cancellato gli ordini agli elicotteri, gli ordini a Finmeccanica per gli elicotteri del Presidente Obama, attenzione che, a parte che non stavamo commentando, ma solo riportando la notizia, ma poi non sono elicotteri militari, sono elicotteri a uso civile. Non vanno a bombardare nessun vecchio indifeso e bambini. Poi sul tema del fatto che l'industria dell'aerospazio e difesa sia un'industria a tutti gli effetti, io su questo non ho dubbi. Comunque, in tema di IRAP invece volete che si riprendano alcuni passaggi. Va bene, sentiamo innanzitutto l'apertura del ministro Calderoli sabato a Mantova di fronte all'assemblea annuale delle piccole imprese di Confindustria, prima che intervenisse la Marcegaglia, ma proprio sul tema dell'IRAP, che cosa ha proposto Calderoli? L'IRAP, la Lega ha sempre chiesto la sua abolizione, mi spiace che in questi giorni qualcuno non si sia ricordato che l'abolizione dell'IRAP è stata già votata nel Parlamento, nel federalismo fiscale, ed è prevista che solo transitoriamente pagherà la sanità e poi verrà soppressa. Però bisogna stare anche molto attenti rispetto a momenti di crisi a parlare e ragionare con molto senso di responsabilità. Io credo che il fatto che non si siano aumentate le tasse e non vi siano previsioni di farlo, diversamente da tanti paesi europei, sia già un grosso risultato. Se qualcuno pensa di intervenire sull'IRAP, io credo che in tempi brevi sia una cosa assolutamente lecita e addirittura morale andare a intervenire sulla indetraibilità dalla base imponibile IRPEF-IRES della parte dell'IRAP relativa al costo del lavoro e relativo agli interessi passivi, che è una cosa incostituzionale, perché non esiste al mondo che uno possa o debba pagare due volte le stesse tasse, e non esiste al mondo far pagare le tasse a un'impresa o una persona che non ha reddito in quel momento. E da qui la proposta appunto di levare almeno l'IRAP che riguarda gli interessi passivi, quelli che si pagano quando si ha debito, e l'IRAP che riguarda i lavoratori, e quindi va a penalizzare anche chi assume o chi mantiene, come è più il caso in questo periodo purtroppo, chi mantiene il dipendente nel posto di lavoro. E su questo poi ricordo che la Presidente di Confindustria Marcegaglia ha chiesto che però questo tipo di riduzione avvenga per tutte le imprese, non solo per quelle sotto 50 dipendenti. Il costo stimato è di circa 3 miliardi per il primo anno e 2 miliardi più o meno a regime. Su questo c'è una posizione netta e chiara anche del Ministro Tremonti, il quale ha detto attenzione, le agenzie di rating, le agenzie che votano, danno il voto sul nostro debito, e se si abbassa il voto, lo chiarisco a chi scrive, a noi costa di più rifinanziare questo debito, un po' come se un privato cittadino avesse un debito con la banca, se diventa meno solvibile, meno affidabile, la banca è probabile che chieda interessi più alti per continuare a prestare soldi. La stessa cosa viene per lo Stato sovrano. Ecco perché le agenzie di rating sono così importanti, perché se ti abbassano un voto tu devi offrire interessi più alti sui bot, sui BTP e su quant'altro. E allora proprio con le agenzie di rating parliamo oggi, con quella che per prima, quando è uscita la proposta da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi di ridurre l'IRAP, eliminare l'IRAP, è intervenuta con un comunicato. Mi riferisco a Fitch e siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Fitch Italia, Marco Cecchi De Rossi, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Voi il 22 ottobre, subito dopo le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio Berlusconi sull'IRAP, siete usciti con una nota e che diceva, se non ricordo male, l'ipotesi di tagliare gradualmente l'IRAP fino a sopprimere le imposte sulle imprese rappresenta un cambio di rotta che ci sorprende rispetto alla direzione tenuta finora. Poi avete detto servono più dettagli, però era un primo, una sorpresa che manifestava un certo, anche una certa preoccupazione. Che cosa vi preoccupa, fermo restando che ogni governo all'interno del controllo dei conti può fare quello che vuole su tasse e gestione dei conti pubblici? Prego. Ma quello che preoccupa chiunque guardi con l'occhio dell'investitore, cioè del detentore dei titoli pubblici, l'andamento del rischio Italia, chiamiamolo così, è che si deroghi o si divida una politica di rigore nella gestione del debito, che pur tenendo conto del fatto che ci troviamo ancora in una fase di crisi, tenga dall'altro conto del limite più stretto che un paese come l'Italia ha nel poter allargare le cosiddette maglie della borsa rispetto a paesi, diciamo, che hanno situazioni di debito molto meno stringenti. Voi avete confermato a settembre il voto sul debito italiano doppia a meno con prospettive stabili. Dopo le informazioni per chi in viaggio le chiedo se di fronte a una riduzione fiscale potreste cambiare prospettive oppure capire qual è il perimetro. Detto molto banalmente, se lo Stato italiano dice bene, abbiamo 3 miliardi che possiamo spendere, vuoi perché entrano i soldi con lo scudo, vuoi perché i Tremonti bond non sono stati utilizzati, questi soldi già messi a bilancio li storniamo per un altro motivo, da come capisco io voi non dovreste avere nessun problema a confermare il rating. Allora, dottor Cecchi De Rossi, in quanto numero uno di Fitch, l'agenzia rating Fitch in Italia, se il governo dicesse, insomma, abbiamo dei soldi, un po' entrano dallo scudo, un po' sono Tremonti bond non utilizzati, già messi a bilancio, per cui questi 3 miliardi di riduzione dell'IRAP per il primo anno li abbiamo, voi non avreste nulla da obiettare come voto sul debito italiano? Guardi, la questione direi va vista da due lati, dal lato della crescita e dal lato del debito. Allora, nell'immediato quello che è importante è che si mantenga la disciplina riguardo all'aumento del debito, e in questo momento ricordiamoci che questa disciplina è relativamente più facile per il basso livello di tasse di interesse, ma dall'altro lato occorre che con tutti i mezzi si investa nel miglioramento della produttività e delle aspettative di crescita, perché ricordiamoci che quello che conta è il rapporto fra indebitamento e prodotto interno lordo. Quindi laddove ci fossero delle misure fiscali che tendessero ad aumentare a medio termine la crescita, la produttività e la crescita, senza a medio termine indebolire la politica di rigore sul lato della gestione del debito, questo addirittura verrebbe riflesso positivamente dai mercati, oltre che dalle nostre opinioni. Quindi, se ho ben capito, lei dice, se non si toccano i conti e questi soldi, diciamo, di fatto già ci sono, vengono stornati da altre cose, con un provvedimento che dovrebbe aiutare le imprese a reggere l'urto dell'occupazione e della produzione industriale ancora molto, molto bassa, meno 30% ci chiuderà l'anno rispetto all'anno prima, e quindi dovesse riuscire anche a far ripartire un po' l'economia, la domanda interna, avere un effetto positivo sul PIL, addirittura sarebbe una misura ben vista. Vado avanti però, perché noi abbiamo un debito che è salito al 115% del PIL, 1.757 miliardi di euro. È salito soprattutto perché si è ridotto il PIL, come lei diceva, è un rapporto debito barra PIL, o fratto come si dice a scuola, PIL. Se il PIL diminuisce aumenta anche il rapporto, non è che sia aumentato in sé il debito. Noi ogni anno dobbiamo rifinanziare un sesto del nostro debito, adesso a scadenza della prossima settimana, cioè questa settimana sono 46 miliardi di BTP, e complessivamente nel 2010 dovremo rifinanziare 200 miliardi di euro del nostro debito, su cui paghiamo 70 miliardi di euro di interessi ogni anno. In generale lei non vede problemi nel rifinanziamento del debito italiano per il 2010? No, non c'è nessun segnale problematico né dal punto di vista proprio dell'andamento del mercato, anche perché c'è una lunga e consolidata rispetto per le capacità di gestione del debito del team, in particolare del Ministero dell'Economia. E quindi stimate il lavoro di Tremonti, e questo è chiarissimo sul debito. Ministero dell'Economia, e quindi c'è anche Vittorio Grilli, oltre che Giulio Tremonti. Certo, devo dire che su questo il ministro Tremonti ha tenuto molta botta in questi mesi, anche contro chi avrebbe voluto aprire i cordoni della borsa. Andiamo avanti però con le mosse future. La Germania ha annunciato proprio sabato 24 miliardi di tagli fiscali alle imprese. Loro lo possono fare e noi no? Il problema è non se si può fare o no qui o là, è la flessibilità, come dicevamo poco fa, la capienza, l'elasticità della Germania è molto maggiore della nostra, perché loro partono da una situazione di peso del debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo, per dire un indicatore semplice, che è un po' diverso dal nostro, cioè migliore nel senso che dà più margini di flessibilità a loro che a noi. Ma voi come agenzie di rating non temete che se però i governi, in questo caso quello italiano, non mettono in campo delle iniziative per far ripartire l'economia e non aggrapparsi solo alla speranza che riparta con le esportazioni, inesorabilmente il nostro debito continuerà a peggiorare? Cioè è meglio a questo punto spendere qualcosa adesso per far ripartire l'economia che non trovarsi con un lento calo del PIL e quindi di fatto con un lento peggioramento del nostro rapporto debito-PIL? Non sono questioni obiettivi alternativi, sono obiettivi che possono essere coerentemente raggiunti mantenendo, come dicevo poco prima, il controllo dell'aumento del debito, addirittura il controllo proprio del debito, e nello stesso tempo indirizzando le risorse verso misure che incrementino la produttività e quindi il potenziale di crescita. Non sono delle alternative autoescludenti, sì. Allora, nel frattempo anche gli Stati Uniti rischiano il taglio del voto da AAA che hanno, lo dice l'agenzia di rating Moody's, se non riporteranno il deficit a un livello sostenibile entro 3-4 anni. Il deficit americano viaggia al 12-13% del PIL, una cifra colossale. Voi avete recentemente tagliato il voto al debito di un paese dell'area euro come la Grecia, perché? Dunque, le ragioni sostanzialmente, molto in breve, sono due. C'è una ragione proprio di annunci poco credibili, nel senso che sono stati fatti degli annunci e delle proiezioni che si sono rivelate assolutamente non nei fatti. E quindi ci siamo trovati con un debito rispetto al GDP del 12,5 invece che del 6. Quindi il problema è duplice, perché da una parte c'è il fatto, quindi questo aumento, che però non è comune solo della Grecia, di aumento del debito rispetto al PIL, perché appunto siamo in una fase difficile e questo è attendibile, è credibile, ma nello stesso tempo quello che invece non va bene è che ci sia troppa discrepanza fra gli annunci e i fatti, perché questo dà una sensazione, dà dell'ipotesi di poca chiarezza e di poca trasparenza, che è quanto di peggio per un mercato, qualsiasi mercato, dico, si possa pensare. Ultima domanda, che riguarda questa volta non lo Stato italiano. Fermo restando che alcuni scrivono al 349-238-6666, criticando anche le agenzie di rating per non aver saputo, diciamo, valutare prima che scoppiasse la crisi finanziaria l'affidabilità di molte banche d'affari americane, ma non solo, Com'è, per l'osservatorio che voi avete, la situazione della presenza di titoli tossici nei grandi gruppi bancari a livello europeo? Cioè voi temete che vi possano essere sorprese, visto che andate a analizzare, dare poi voti al debito anche dei soggetti privati, non solo degli stati sovrani? Ma guardi, la situazione delle grandi banche in generale è in miglioramento. Ricordiamoci che ci troviamo di fronte in differenti paesi a situazioni completamente diverse. Ricordiamoci che molte grandi banche in Europa continentale, quindi mi riferisco a Francia, Germania, Regno Unito, hanno avuto e hanno tuttora la presenza di investimenti pubblici dello Stato centrale nel loro capitale sotto varie forme. Lo stesso avviene negli Stati Uniti, mentre così non è per esempio in Italia. Ecco, quindi quando andiamo a parlare di banche bisogna tenere conto sempre di più che ci troviamo di fronte a situazioni diverse. Ciò detto, si è verificato negli ultimi paio di trimestri un rallentamento, un'interruzione dei downgrade, cioè degli abbassamenti dei rating, una stabilizzazione che riguarda globalmente tutto il sistema finanziario. Mi dica solo sì o no, ma le banche italiane da questo punto di vista sono messe meglio delle altre banche europee e americane? Sì. Ok, grazie amministratore delegato dell'agenzia di rating Fitch, una delle tre appunto che danno i voti al debito dei paesi e dei soggetti privati, Marco Cecchi De Rossi. Grazie a voi, buonasera. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. A chi dice ma insomma la lotta all'evasione è seria, sì, sicuramente risorse arriveranno anche da lì, però in questo momento, ricordo l'appello di oggi di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, dal 1 gennaio si attui una parziale riduzione dell'IRAP, in questo momento servono risorse subito spendibili da qua a gennaio, poi siamo d'accordo che quello resti un tema forte che va affrontato. Comunque ne parleremo anche domani. Per ora è tutto da Sebastiano Brisoni, l'augurio di una buona serata. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi.